1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Quando sono le 7:18 minuti in questo venerdì, signori, siamo pronti a leggere quello che raccontano i giornali con la politica, con le banche, con la cronaca, soprattutto da fermo. Siamo qui, dai, andiamo avanti. Oh, non sanno di che parlare i giornali, Allora, siamo in questo venerdì 8 luglio con i titoli, l'apertura del Sole 24 ore sulle banche, il piano MPS per gli NPL, cioè non performing loans, obiettivo cessione lampo. Questa è la notizia che c'è sul Sole, e cioè il CDA di Montepaschi, riunito ieri, che ha deciso di puntare alla cessione più rapida possibile dei crediti in sofferenza. Si parla di vendita di 10 miliardi al Fondo Atlante nel giro di 2 settimane. Queste sono le indiscrezioni sul Sole. Per il Corriere della Sera, aiuti alle banche, decide la Corte. I giudici europei si pronunceranno il 19 luglio sul ricorso di Italia e Slovenia. E poi andiamo alle altre notizie. Repubblica, odio razzista, così il profugo è stato ucciso. Mentre c'è chi mette Vatilix, finisce in nulla, è l'apertura del Giorno, e anche la vendetta del Vaticano è il titolo invece di Libero. Il processo ai due giornalisti, ma anche a Francesca Sciauchi e a un monsignore. Tra l'altro ne avremo ospite Gianluigi Nuzzi alle 8:40 per parlare di questa soluzione. Avremo ospite anche Massimo Giannini, reduce della stagione a Ballarò, sempre alle 8:40. Poi il Giornale, prendi la pensione, scappa la truffa degli immigrati. Falsi residenti incassavano l'assegno e tornavano nel loro paese. Per la Stampa invece, governo, vertice, Renzi, Mattarella. Per il Messaggero, salva banche, lite a Bruxelles. In maniera anche, non si sa se con doti da previsioni sul futuro, ma certamente non casuale, il Manifesto invece ha un titolo di prima pagina che è molto correlato alle notizie che stanno venendo fuori da Dallas in questo momento, mentre vi stiamo parlando. Perché 2 giorni fa è successo negli Stati Uniti, o meglio, sono 2 gli episodi, sia in Louisiana che in Minnesota, che 2 afroamericani sono stati uccisi a bruciapelo dalle armi di ordinanza della polizia. In un caso c'è anche un video abbastanza agghiacciante di un fermo di polizia a un posto di blocco con 4 colpi che partono e uccidono un afroamericano alla guida che stava solo raccogliendo dei documenti per il poliziotto, e tutto ripreso dalla fidanzata della vittima. Ebbene, cosa sta succedendo? Il titolo è Intolerance, dedicato appunto, c'è una vedova di un afroamericano che piange, intolleranza. E cosa sta succedendo a Dallas? Lo sentiamo anche nel giornale radio. C'è una rivolta proprio per queste uccisioni. Pare che dei cecchini appostati in un palazzo abbiano fatto proprio un agguato ad agenti di polizia. Ci sono 4 agenti di polizia morti, alcuni feriti gravemente a colpi d'arma da fuoco. 2 persone sarebbero state fermate, dice la BBC, per questa vicenda. Insomma, è una situazione, come si vuol dire, in corso di svolgimento a Dallas. Ma veniamo invece al razzismo nostrano, se vogliamo. Dico questa parola razzismo perché la finalità razzista è contestata al signor Amedeo Mancini, 39 anni, colui che è stato fermato per l'omicidio del nigeriano Emmanuel a Fermo. Preso il killer, omicidio aggravato da finalità razziste. Intanto sui giornali è tutto un raccontare la versione dei fatti, e sulla versione dei fatti effettivamente tutti i giornali raccontano che la procura e anche gli inquirenti e anche la polizia sono propensi a pensare a quelle testimonianze che dicono che in qualche modo anche Emmanuel abbia preso parte attivamente a una vera e propria rissa. Ma addirittura si parla di questo palo della segnaletica stradale, forse usato dal nigeriano scagliato verso Amedeo Mancini. Poi a quel punto la rissa pareva finita, il nigeriano stava andando via e Mancini lo avrebbe inseguito e avrebbe dato un pugno, un cazzotto molto violento, causandone poi la morte un paio di giorni dopo. Allora, questa è la versione dei fatti. Il dato inconfutabile, incontestabile, e i ritratti di Amedeo Mancini sono impressionanti oggi sui giornali. Uomo che andava allo stadio e ha 5 DASPO, cioè 5 divieti di presentarsi alle manifestazioni sportive. Fanno sapere tutti i giornali, spesso venivano disattesi. E poi l'insulto che ha fatto scatenare tutto, quel scimmia quando stavano passando Emmanuel e la moglie in maniera assolutamente innocua. Certo, poi Emmanuel ha reagito e ha drammaticamente avuto la peggio in questa vicenda, ma guardate qua, una condanna per rissa, 5 DASPO, il tifoso con pietre e manganelli. Questo è per esempio il ritratto del Corriere della Sera, uno che aspettava quelli della tifoseria avversaria con bastoni, manganelli, chiavi a tubo, pietre, uno che chiamava scimmia qualunque persona di colore perché si usa così allo stadio. 5 DASPO, più delle volte ignorati, una denuncia per lesioni personali, una condanna per rissa, un patteggiamento per porto abusivo d'armi. Questo in estrema sintesi Amedeo Mancini. Per il Messaggero, un ex pugile con una vita di prepotenze passava il tempo insultando in strada, oltre a fare l'agricoltore. Se volete, il ritratto più incredibile lo fa Paolo Crecchi sulla Stampa, un grande inviato che sa occuparsi di cronaca in modo straordinario. Paolo Crecchi, eccolo qua, l'ultra col vizio delle risse. Sentite, Paolo Crecchi ha raggiunto il fratello di Amedeo Mancini. E sapete cosa dice il fratello di Amedeo Mancini? Testuale, due punti aperte virgolette. Di solito mio fratello tira le noccioline quando vede passare un negro, ma lo fa per scherzare. Perché è un allegrone, ha avuto una vita difficile, a 39 anni non può andare neppure allo stadio, è diffidato. Certo, chissà perché. Da ieri Amedeo Mancini è in stato di fermo e il fratello dice questo: diventa violento solo se lo vai a cercare. Ma l'insulto? Boh, quei due potevano starsene anche a casa, mica li abbiamo chiamati noi in Italia. Ecco, questo è il contesto. Questo è il contesto da tenere ben presente nelle parole del fratello della persona fermata, che poi aggiunge: lo hanno già condannato, e allora chissà se fosse capitato a me che sono stato in galera per spaccio di droga. La verità è che ci facciamo un mazzo quadrato per tirare avanti, io stampare suole di scarpe in fabbrica, lui a lavorare in campagna raccogliendo cipolle e tagliando la legna. Ma sì, se uno si spacca la schiena come tanti italiani, cosa volete che sia? Passare almeno un po' del proprio tempo lanciando le noccioline ai negri, urlando gli scimmie quando passano, così, perché sono degli allegroni. Chi di voi non lo fa dopo 8 ore in fabbrica? Cioè, il senso è che sta passando anche questo tipo di messaggio. Cecil Kyenge parla: mi definirono orango, la politica ha sottovalutato. Sull'Unità, certo, non è la risposta, dico io, rimettere Cecil Kyenge ministro, ci vorrebbe più educazione, integrazione, lavorare negli anni, nella cultura, fin da bambini, come ci ha detto prima Mauro Corona, i genitori e i bambini, non è mettendo un ministro di colore che si risolvono i problemi, quelle sono icone. Comunque, l'eurodeputata del PD ricorda il caso Calderoli all'Unità e ora chiede una strategia contro il razzismo che coinvolga tutti i livelli della società. Questo è quello che succede a Fermo. Oggi Iena è particolarmente graffiante sulla Stampa, pagina 3, dal titolo Invasioni. Si drogano, spacciano, rubano, picchiano, uccidono. Bisogna fermare questa invasione di italiani. Questo Iena sulla Stampa. Va bene. Come detto, ne avremo ospite Gianluigi Nuzzi, uno dei due giornalisti assolti ieri insieme a Emanuele Fittipaldi per Emiliano Fittipaldi per i libri scritti, erano a processo in Vaticano. Loro sono stati assolti, ma sono state condannate invece Francesca Immacolata Sciauchi, 10 mesi di reclusione con pena sospesa per 5 anni, è anche diventata mamma da poco. E chi ha pagato di più di tutti allora è Monsignor Lucio Vallejo Balda, che invece è stato condannato a 1 anno e mezzo. E come racconta Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, è rimasto immobile con l'aspetto dimesso, rassegnato anche in nome del Papa. Mentre si pronunciava la sentenza è rimasto impassibile. La sentenza più dura, 1 anno e mezzo, a meno di un ricorso in appello che da indiscrezioni non è intenzionata a proporre, Monsignor Balda esce di scena così, curvo, sotto il peso di un processo che ha causato più clamore e amarezze che conseguenze giudiziarie. E Francesca Immacolata Sciauchi invece 10 mesi, mentre l'avvocato cerca un po' di portarla via, parla con i giornalisti all'uscita e dice: ho delle carte ancora più scottanti di quelle uscite. Io i documenti ce l'ho, certo, nei mesi alla COSEA, cioè questa commissione del Vaticano in cui ho lavorato, sotto gli occhi mi è passato ben altro rispetto alle 4 cavolate scritte da Nuzzi e Fittipaldi. Ad esempio i conti laici dello IOR, i conti laici dell'APSA, ne ho tante di queste carte. Insomma, suona molto come una minaccia. Infatti il giorno titola una pagina: ho altre carte nella mia cassaforte, e racconta con Viviana Ponchia l'ascesa e la caduta della cosiddetta papessa Francesca Immacolata Sciauchi. Va bene, siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata? Ci siamo. Oh, mi attirerò varie critiche, ma eccoci qua. La dieta vegana a scuola per il figlio di 8 anni. Una signora vince la battaglia in tribunale e obbliga la scuola a dare alla bambina di 8 anni, anche Paolo Corleone è subito nervoso, si sta innervosendo. Come mai? Sei vegano e ce l'hai con me? Oppure sei nervoso per la notizia? Sei nervoso per la notizia. Va bene, suo figlio di 8 anni può seguire la dieta vegana che gli sarà somministrata anche a scuola, racconta Stefania Totaro sul Giorno, a pagina 19, la battaglia giudiziaria vinta da una mamma vegana monzese. Ha ottenuto la pronuncia favorevole del Tribunale di Monza sul ricorso che aveva presentato contro la decisione del Tribunale dei Minori di Milano, che invece voleva far seguire al figlio una dieta onnivora. E va bene, questo bambino crescerà vedendo gli altri mangiare hamburger, pollo, bere il latte, eccetera. Lei no, cioè il figlio no, nonostante molti medici dicono che una dieta vegana è assolutamente equilibrata ad adulti, magari in fase di sviluppo no. Eccola qua, dieta vegana a scuola per il figlio, la mamma che vince in tribunale e Ale. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Milan, il tribune dell'informazione. Vabbè, insomma, non è il massimo della vita. Abbiamo appreso dal sindaco di Cerignola, però avanti così. Allora, c'è la politica che oggi, quando ho letto il Corriere della Sera, l'articolo principale di politica, 2 articoli anzi iniziavano nelle prime 3 righe parlando di fibrillazioni, stavo per stracciare la pagina di rabbia, ma perché mi dà fastidio il termine, no? Legato alla politica non c'entra nulla, ma è il termine più utilizzato. E vabbè, detto questo, questo è, ci sono le fibrillazioni, appunto. È interessante leggere Ugo Magri a pagina 7 della Stampa, racconta così Magri: è sempre così, non appena in Senato si ricomincia a parlare di agguati e trabocchetti, ecco i congiurati precipitarsi a smentire. Ieri è stato un rosario di dichiarazioni rassicuranti, non sarà Verdini a dar la spallata, non saremo noi di NCD, però... Magri racconta: fonti molto attendibili confermano che ci sono almeno 30 o 40 senatori in maggioranza in preda alla disperazione politica, disposti a qualunque gesto, anche il più inconsulto. Insomma, la crisi e far andare sotto la maggioranza, diciamo che è un qualcosa che per la stampa c'è. E infatti ieri ne hanno parlato Mattarella e Renzi in un incontro ufficialmente per preparare il prossimo summit della NATO. Ma al Quirinale non si è parlato altro che di questo, della crisi politica. Per Renzi la situazione in Senato è sotto controllo, questo ha detto a Mattarella. Ma se dovesse capitare l'incidente, le regole di Renzi sarebbero quelle di andare alla direzione del PD e proporre elezioni anticipate, subito alle urne, insomma, senza attendere il referendum. Ovviamente qui, come fanno sapere alcuni giornali, come Libero ha fatto notare, Mattarella dice: decido io. Però la linea di Renzi è proprio questa: il premier, se sarà crisi, tocca a me dare le carte. Questo è il titolo del retroscena del Corriere della Sera, firma Marco Galluzzo. Matteo Renzi è convinto di vincere il referendum. Non vedo incidenti nell'aria, dice, i numeri ci sono, ma in caso di crisi l'idea è quella, elezioni. A proposito di referendum, sempre La Stampa dice che il referendum è stato spostato, in realtà la data è tutti in retroscena, la data non è fissata, ma sarà il 6 novembre, verrà spostato da ottobre a novembre. Questo, ripeto, racconta il retroscena della Stampa. Renzi rassicura il Colle è anche il titolo di pagina 10 di Repubblica, Carmelo Lo Papa, ho i numeri al Senato. In tutto questo c'è un trafiletto che ho trovato solo su Repubblica, ragazzi, ce l'ho detto anche alle 6.30, che dobbiamo fare? Andare a Međugorje, fare una macumba, dare tutti un sostegno. Silvio Berlusconi non passa giorno senza che gliene capiti una. Secondo questo trafiletto di Repubblica, l'ultima dopo la ben più grave operazione al cuore è questa: Berlusconi si rompe due dita rimaste chiuse nella portiera dell'auto. Oh, si è fratturato due dita della mano, a quanto pare rimasta incastrata nella portiera dell'auto. Silvio Berlusconi su Repubblica, sarà effettuata una radiografia per capire la reale portata dell'incidente. Sono cose che capitano, verrebbe da dire, certo che a lui ne capitano più spesso in questi ultimi tempi. Allora, questo per quel che riguarda la politica, si parla di congiure, NCD, il Fatto Quotidiano rilancia alcuni frondisti del nuovo centrodestra pronti a dire ci sarà con noi. Franceschini a tramare contro Renzi, ad abbattere Renzi. Cosa un po' più concreta è invece quello che è successo a Roma, almeno si è partiti, la giunta è stata varata, c'è stata la prima seduta del Consiglio Comunale, oggi ci sarà la prima seduta di giunta, insomma stiamo parlando del Comune di Roma, Movimento 5 Stelle, Raggi che debutta anche portando il figlio in braccio e portandolo nell'aula del Consiglio Comunale. Il direttorio 5 Stelle in prima fila, fa sapere il Corriere della Sera. C'era anche il famoso avvocato San Marco, cioè il mentore della Raggi, titolare dello studio che difende Cesare Previti, che gli è costato molte polemiche al neosindaco per il lavoro svolto lì. E ci sono le dichiarazioni per esempio di Roberta Lombardi, deputata 5 Stelle, che tranquillizza, intervistata dal Corriere della Sera da Emanuele Buzzi: con lei è vero, incomprensioni, ma ora lavoriamo insieme per la città. Roberta Lombardi dice: le correnti, ma per favore, la sua è deformazione professionale, capisco, seguite la politica da 20 anni e si è sempre ragionato per correnti, cordate, colpi bassi, ma noi siamo diversi, ci possono essere momenti difficili, per carità, ma si affrontano con correttezza e lealtà. E a proposito dei rapporti con Virginia Raggi dice: sono come prima, ci conosciamo da 3 anni, ci possono essere state incomprensioni, così come ci sono state con altri consiglieri, siamo esseri umani, l'importante è avere la consapevolezza che quando rappresentiamo un'istituzione la priorità è lavorare per il bene comune e per la città. Questo Roberta Lombardi. Certo, c'è da dire che nel giorno in cui si insedia la giunta e soprattutto, no, la giunta sarà oggi la prima giunta, ma nel giorno in cui si insedia il Consiglio Comunale c'è una prima questione che creerà non pochi imbarazzi, ed è questo. Ilario Lombardo sulla Stampa: consulenze ASL alla Raggi, Cantone invia le carte ai magistrati. Se l'aspettavano ed è arrivato. Ilario Lombardo racconta, pagina 5 della Stampa. È un esposto su Virginia Raggi firmato dall'ANAC, cioè l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, presentato alla Procura di Roma. All'interno del Movimento 5 Stelle c'è chi lo sa già e attende preoccupato l'esito di una vicenda non ancora completamente chiarita. Riporta l'ASL di Civitavecchia, le consulenze della Raggi da avvocato, primo incarico nel 2012 per 8.000 euro, il secondo nel 2014 da 5.000 euro. Peccato che di questo non vi sia traccia. Del primo dichiara solo 1.800 euro ricevuti, ma nel 2015, del secondo non certifica nulla. E allora, Con questa omissione Raggi avrebbe violato l'articolo 14 di legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, che regola i comportamenti di chi ha incarichi politici e amministrativi ed è tenuta a riferire tramite autocertificazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Questo dice testualmente la legge. E allora potrebbe esserci un primo così problemuccio. Tra l'altro nella giunta di Roma non c'è Andrea Lo Cicero, che raccontano tutti i giornali, è arrivato emozionato come un bambino, lo ha detto lui stesso alla presentazione della giunta il giorno prima, per scoprire che era stato fatto fuori. E infatti dichiara sempre Andrea Lo Cicero: apprendo con stupore di non far parte della giunta di Roma, ma do a loro un rugbistico in bocca al lupo, visto che è stato un campione di rugby. Vabbè, questo per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle. Le banche. Oggi il Sole 24 Ore ha un'anticipazione con Marco Ferrando molto interessante, molto importante, e cioè questa per quel che riguarda i non performing loans, quindi le sofferenze delle banche, visto che l'Unione Europea chiede soprattutto a Montepaschi di disfarsene, almeno di disfarsi di parte di queste. Montepaschi avrebbe messo a punto un piano per una cessione lampo, cioè nel giro di 2 settimane, di 10 miliardi di queste sofferenze, cedendole al fondo Atlante. Chissà se è così, caro Mauro Meazza, chissà se è così, tu che sei tutto. Buongiorno, buongiorno Alessandro, questa è la tua attenzione per la vicenda del NPL, dei non performing loans, mi manda un po' in fibrillazione, come dire. Ti ringrazio, allora ti do una testata al bar. Cerco di alleggerire, però, come hai ben riferito, sì, è così. Allora, questo piano per cessione lampo, cioè in realtà la cessione dovrebbe avvenire in tempi decisamente più lunghi, secondo le stesse richieste della Banca Centrale Europea. Però, come dire, MPS decide di giocare d'anticipo e servirà però una garanzia pubblica per la cessione di queste garanzie, che ovviamente sono iscritte a valori più alti di quello che si potrà realizzare. Tutti i particolari in pagina 3 oggi del Sole 24 Ore. Hai parlato per caso di pensioni anche? Non mi pareva, non ancora, fino ad ora. Sapendo che lo farai tu. Per consigliarti la lettura, sempre nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, di quanto ha detto ieri Boeri, presidente INPS, che ha segnalato, oltre a una crescita della spesa per le pensioni, anche che ci sono, non vorrei sbagliare il dato, 15,7 milioni di pensionati in totale, e però ce ne sono un bel po' con 6 milioni circa sotto i 1000 euro al mese. Questo ha segnalato Boeri. Poi ci sono altri, molti altri numeri ovviamente oggi sul Sole 24 Ore, pagina 8. Ti consiglio anche la meditazione più che la lettura, la meditazione dell'articolo di Marco Rogari a pagina 8, dove si parla di APE. Ti ricordi l'APE? APE, arriva 2017, deve arrivare l'APE. La Rita, ti ricordi Rita? Non la nostra amica Rita, ma cioè la rendita integrativa anticipata, ecco, poi le rivalutazioni, insomma tutto il cantiere delle pensioni riassunto. Ti consiglio la meditazione del Sole 24 Ore di oggi. Hai parlato di consumi? No, mi pare di no. Questo. Non hai parlato di consumi, ma puoi leggere il Sole 24 Ore nella parte imprese e territori. C'è stato, l'ha detto l'Istat, un rimbalzino dello 0,4 nei nostri consumi, nei consumi degli italiani nel 2015. Con piuttosto che niente, meglio piuttosto, si dice ogni tanto, ma devo dire è una crescita così, bello il segnale, e un po' bassino magari, un po' bassino la percentuale. E poi c'è una crescita, lo leggo sempre sul Sole 24 Ore, degli ascolti Radio 24, nonostante, come dire, il sottoscritto mi verrebbe... Nonostante anche me, ma si sa, si ma, sa. No, non lo so, sono cose abbastanza Nemo profeta in patria. Comunque è così, c'è scritto sul Sole 24 Ore. Sì. E infine, ma non per questo meno importante, hai parlato di canone Rai? No. Ma luglio è il mese del canone Rai, caro mio. Canone Rai che sta arrivando nelle bollette, ma se per caso tu non sei allacciato alla bolletta o hai altre situazioni che vengono riassunte in norme e tributi, puoi usare F24. F24 sai che è la delega per pagare le tasse, certo. Non l'F24 o l'aereo. Questo è scritto tutto su norme e tributi. Ho tenuto per ultimo la cosa che mi è più cara, la voluntary disclosure. Certo. Perché ci sono le segnalazioni dell'antiriciclaggio post voluntary disclosure, cioè può essere che alcune operazioni, pur coperte fiscalmente da voluntary, comportino una segnalazione per verificare la posizione per l'antiriciclaggio. Tutti i particolari in norme e tributi. Buona domenica, caro Alessandro, e soprattutto, come sempre, traffico! Lo voluntary disclosure, che cavolo ordini! Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Questo è uno dei migliori, forse il secondo dietro l'Arrotino, dietro l'Arrotino. Allora, siamo qui a parlare, a raccontare quello che trovate sui giornali, che è un po' superato, o meglio, va aggiornato con gli eventi di cronaca che ci provengono da Dallas, dove ricordiamo è in corso una rivolta violenta contro le uccisioni di afroamericani avvenute negli ultimi due giorni, e in questa rivolta violenta a Dallas, in Texas, sono stati uccisi 4 poliziotti da cecchini che hanno sparato dopo aver teso un'imboscata a questi agenti di polizia. Ce ne sono altri feriti e 4 morti. Tutti i dettagli poi li sentiremo nel giornale radio delle 8 tra pochi minuti. Ma da cosa nasce tutto? Beh, Giuseppe Sarcina lo racconta sul Corriere della Sera. La polizia spara, lei filma in diretta, il video su Facebook scatena la rivolta. È la morte raccontata in diretta dal sedile di un'auto con il telefonino collegato a Facebook da parte di Levish Reynolds, che ha fatto le riprese, donna afroamericana che ha ripreso, inquadrato il fidanzato Philando Castile durante un posto di blocco. Cosa succede? Sono le immagini che trovate su internet, chiarissime. Mercoledì, ore 21, una pattuglia nel sobborgo di St. Paul, nel Minnesota, ferma una macchina d'incrocio. Al volante c'è Philando, 32 anni. Che lavora in una caffetteria, di fianco la compagna che riprende col telefonino, dietro la figlia di 4 anni, la figlia della donna. La vettura ha un fanalino rotto, la gente chiede i documenti. A un certo punto spara il poliziotto, perché alla domanda ha una pistola, ha qualche arma a bordo, l'uomo dice sì, ho un'arma a bordo, poi fa per prendere i documenti e il poliziotto dice le avevo detto di tenere le mani ferme, tutto ripreso, e da qui si è scatenata la rivolta. Anche su Repubblica, Stati Uniti, torna la violenza sui neri, e a Dallas la situazione appare davvero molto concitata in queste ore. A proposito di immigrati, per tornare invece all'Italia, l'apertura del giornale è dedicata a una vicenda di cronaca non certo edificante. Prendi la pensione, scappa la truffa degli immigrati. Beppi Castellaneta racconta da Bari la storia di false residenze di stranieri che incassavano l'assegno pensionistico ma poi tornavano nel loro paese. Era giusto il tempo di sbarcare in Italia, farsi riconoscere la residenza, presentare una domanda scritta, poi il viaggio di ritorno incassando la pensione sociale puntualmente assegnata dall'INPS. Così 174 migranti, in gran parte albanesi, per diversi anni hanno truffato l'INPS assicurandosi un'indennità mensile inattaccabile al riparo da eventi di crisi. Truffando l'INPS e truffando noi. Ecco, questo aggiungiamolo, perché sono soldi pubblici. E quindi, insomma, soldi dell'INPS e quindi soldi di tutti noi. Mentre vi segnalo che noi ne parleremo alle 9, la vicenda della legalizzazione delle droghe, dopo che il procuratore Roberti ha detto andrebbe fatta la legalizzazione delle droghe leggere per sconfiggere il narcotraffico mondiale. Oggi risponde in qualche modo, sempre sulla stampa, Nicola Gratteri, magistrato, procuratore a Catanzaro da poco, in prima fila nella lotta all''ndrangheta, ha una posizione diversa. Intervistato da Gaetano Mazzucca, lui dice no, legalizzare la marijuana non colpisce le cosche, colpisce in minima parte, riduce la criminalità. Un grammo di eroina costa 50 euro, un grammo di marijuana 4 euro, insomma non c'è paragone dal punto di vista economico. E poi Gratteri ne fa una questione anche etica, se volete. Uno Stato democratico si deve occupare della salute e della libertà dei cittadini. E dunque non possiamo legalizzare ciò che fa male. Così Gratteri, la droga fa male, legalizzarla è sbagliato. Il dibattito è aperto, è una risposta al procuratore antimafia, e ne parleremo ne parleremo dalle 9 alle 9.30. Sapete che tutto il mese di luglio andiamo avanti dalle 9 alle 9.30. C'è anche una cosa da registrare, cioè una pagina del secolo XIX, lo faccio vedere in diretta sul mio canale Facebook, siamo in diretta. Diaz, cancellati i nomi dagli archivi giudiziari. La vicenda dell'assalto alla scuola Diaz, il G8 di tanti anni fa a Genova, 2001, sono state coperte le identità degli imputati e poi delle vittime che non lo hanno neanche chiesto, proprio col bianchettino, col bianchetto, in modo che magari si fa fatica a rintracciarle. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua. Siamo e torna Oscar Grazioli, che dedica una pagina all'inchiesta, alla prestigiosa ricerca della Queen Mary University di Londra, che ha stabilito che anche le caprette... le caprette sono come Fido, cioè sono, si affezionano al padrone. Ma chi se ne frega?